voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Gabriele Galante, vendere all'estero, restare in Italia. Gabriele Galante fonda nel 1972 la IMF, Impianti e Macchine per Fonderia, partendo dall'attività di famiglia. Crede nell'internazionalizzazione e vende il 90% all'estero. Ma la sede principale della sua azienda resta e cresce a Luino, in provincia di Varese, dove l'azienda è nata. Io sono figlio di imprenditori. Mio papà aveva una fonderia che a sua volta era un reparto dell'impresa di costruzione di mio nonno. Per volontà di mio padre, lavoravo in fonderia la metà del mio tempo e delle mie vacanze. È sempre stato un pallino di mio papà, metà ci si diverte, metà si lavora. Quindi sono stato in fonderia con lui per un po' di anni, mentre studiavo in istituto. Poco più che ventenne, si trova a gestire la fonderia di famiglia e quasi per caso inizia a costruire macchine per fonderia. Successivamente, quando purtroppo per una malattia di mio papà ho interrotto gli studi universitari, mi sono messo a lavorare fisso in fonderia. La necessità, di portare avanti un discorso in maniera moderna mi aveva fatto inventare una macchina che, vista da un rivenditore di macchine del nostro settore, l'ha convinto che potesse essere una buona cosa venderla. Risultato, quindi, io dalla fonderia ho cominciato a avere nel reparto di manutenzione a costruire queste macchine. Successivamente questo lavoro è diventato più importante che non la fonderia di mio papà, e quindi la ditta è diventata la IMF. Siamo negli anni 70 e l'azienda arriva quasi da subito a commercializzare una percentuale più che significativa dei suoi prodotti sui mercati internazionali. Da subito però la nostra azienda ha avuto subito una buona attività internazionale. Siamo riusciti da subito a vendere all'inizio solo in Francia e in Spagna. Successivamente abbiamo ricomperato il nostro contratto di esclusiva con questo venditore, che era Ernesto Promaggiore di Torino, e in perfetto buon accordo con lui abbiamo cominciato a muoverci internazionalmente in maniera più importante. Cominciare a lavorare all'estero così in maniera così importante ci ha messo subito in concorrenza con i nostri concorrenti importanti. Concorrente qualche volta è anche uno che ti dà la strada, capisci dove sbaglio, dove fa bene, e quindi senza confrontarsi con i concorrenti è impossibile muoversi. Questo ci ha portato da subito a vendere all'estero una grossa parte. Anche dai primi anni eravamo sopra il 50% di esportazione. Oggi siamo molto vicino al 90%, spesso superiamo il 90%. E dopo la vendita va all'estero anche parte della produzione, anche se la sede principale resta sempre quella di Luino. L'internazionalizzazione e non la delocalizzazione. Io sono assolutamente, ci tengo molto a questa differenziazione dei termini. La gente li confonde, non è vero. Internazionalizzare un'azienda è un conto, delocalizzare è un'altra cosa. Noi abbiamo sempre capito che non si poteva far tutto senza, far diventare un po', nazionalizzare un po' nel senso dell'altro paese quello che si faceva. Abbiamo capito che bisognava, al limite, la prima cosa che fai per internazionalizzare la tua impresa, traduci i libretti di istruzione nella lingua del paese in cui vuoi esportare. Da questo andare avanti abbiamo poi scoperto che, facendo il tipo di impianto che facciamo noi, si capiva che non si poteva far tutto in Italia e mandarla. Ci sono delle parti per le quali praticamente il trasporto viene ad essere troppo importante rispetto al valore delle macchine. Allora abbiamo cominciato a pensare di costruire. Abbiamo trovato in Repubblica Ceca all'inizio qualche resistenza, poi abbiamo avuto la fortuna di comprare da un fallimento per una quantità di denaro che allora potevamo manovrare uno stabilimento. Abbiamo anche scoperto che non è vero che le piccole imprese italiane o le medie imprese italiane non sono aiutate. Abbiamo trovato Simest, che può anche costare qualche soldo, però ci ha aiutato a partire con il piede giusto lì, con gli investimenti giusti, quindi non con un investimento troppo piccolo, e questo ci ha aiutato molto. Oggi la IMF, oltre allo stabilimento principale di Luino, dove c'è il know-how più importante, ha uno stabilimento in Repubblica Ceca, uno in Brasile e uno in Cina, uffici negli Stati Uniti, in Russia e in India e rappresentanti in 31 paesi del mondo. Dell'espansione sui mercati esteri vede difficoltà e opportunità. Guardi, io credo che per poter andare bene all'estero e lavorare bene bisogna assolutamente che ci sia una base prima, che sia la base che riguarda la capacità di trovare il lavoro lì. Cioè, uno si muove, va all'estero. Se uno va all'estero con l'idea di costruire lì per poi esportare da lì da altre parti, solo non funziona. Una base locale ci deve essere. Prima riesco a capisco che posso vendere, la fase numero uno. La fase numero due è quella di capire che non posso più fare quello che devo fare completamente in Italia. Ci sono delle parti che devo per forza far lì e allora devo cominciare a pensare di costruire. E poi l'altro punto per me veramente fondamentale, che sarebbe bello ottenere solo adesso qualche banca italiana è veramente sul territorio internazionale, e avere qualche banca che ti segue da là. Perché un'altra delle cose quando vai all'estero è che non è facile reperire il credito che reperisci in Italia, perché in Italia sei conosciuto, perché in Italia hai delle proprietà, perché in Italia hai delle garanzie che quando arrivi nuovo in un paese non ci sono. Mentre cresce la presenza internazionale, cresce anche la sede di Luino. Io dico che secondo me per poter far crescere l'albero all'estero bisogna che le radici rimangano nel territorio, questo è fondamentale. Tanto è vero che, le spiego, tutte le volte che siamo andati all'estero abbiamo creato una struttura sia di vendita che di anche un sito produttivo. Abbiamo sempre poi aumentato e riqualificato il personale di Luino. Io mi ricordo che una consulente, peraltro molto brava, che guardava con noi un po' i nostri conti, ma anche i nostri rapporti con le istituzioni e le banche, un giorno mi ha detto: ma come fa Galante ad andare avanti lei con un solo ingegnere? E aveva ragione. Oggi abbiamo 23 laureati in azienda su 130, 65 diplomati. Ecco che tutte le volte che siamo andati da qualche parte abbiamo avuto che una parte sì di lavoro andava via, ma era sempre in più. Il nostro fatturato è sempre aumentato, il nostro numero di gente è sempre aumentata e la qualificazione della nostra gente è sempre aumentata. È per quello che io dico che questa è internazionalizzazione e non delocalizzazione. La IMF ha 330 dipendenti nel mondo, un consolidato del 2008 di 74 milioni di euro, con una flessione del 17% nel 2009 e un inizio del 2010 non brillantissimo. Ma a marzo è iniziata una ripresa piuttosto importante che ha compensato l'andamento dei primi due mesi dell'anno. E nonostante la struttura ramificata, il rapporto con il territorio e la base in Italia resta forte. La gente che con me muove l'azienda è personalmente convinta che il territorio sia qualcosa a cui dare per poi ricevere dal territorio. Se l'azienda è considerata un bene del territorio, dalla gente che vive nel territorio, se non è considerato qualcuno che inquina, che sporca, che mette la gente a lavorare in condizioni non gradevoli, ma è considerata un'opportunità, non vorrei dirlo in dialetto, non è bello, ma come dicono dalle nostre parti, se può mandare lì a lavorare il mefieu, se posso mandare mio figlio a lavorare lì, vuol dire che il posto è amato, che va bene, e quindi vuol dire che ci siamo intesi col territorio, la gente capisce che la tua impresa è un bene per il territorio, è un asset del territorio. Qualche volta mi capita di dire che l'impresa non è mai i muri, le macchine o i disegni, l'impresa è la gente che c'è dentro, insomma. In Luino, come ho detto, noi abbiamo l'abitudine di incontrare quegli operai e tutti, ci incontriamo tutti, a un certo punto sì, anche non con delle cose lunghissime, le 5 e un quarto, facciamo metà per uno, 5 e un quarto, la ditta paga un quarto d'ora, un altro quarto d'ora se lo pagano loro, nel senso che stanno lì a sentire senza essere pagati, se è il caso. Parliamo di quello che sta succedendo, parliamo di quello che sta succedendo con serenità, anche quando c'è da dire no, qui abbiamo fatto degli errori, qui abbiamo fatto delle cose giuste. Gabriele Galante è dal 1998 presidente del CEMAFON, Associazione Europea dei Produttori di Macchine per Fonderia, e sostiene che per reggere il mercato e il confronto con la concorrenza internazionale, le aziende italiane devono lavorare assieme. Il discorso è che se non si ha la capacità di aggregarsi e di muoversi un po' insieme, di anche attraverso le associazioni o almeno attraverso un accordo di vendita, succederà che certe piccole imprese con delle conoscenze pesantissime, bellissime, potrebbero avere difficoltà letali. In Italia noi abbiamo la gamma più importante di prodotti per la fonderia, ma è distribuita su aziende medio-piccole. Qualche volta sono microimprese sotto i 15 operai, 20 operai, ma fanno delle cose specializzatissime, ma non hanno la struttura di vendita per tutto il mondo e non sono neanche strutturati per riuscire a usare i mezzi che lo Stato ci dà, perché non è che non c'è mai lo Stato. Io sono contro quelli che si lamentano per il partito preso. Lì ci aiuta a vendere, però certo che bisogna almeno parlare l'inglese, cioè bisogna quindi che alcune società, se si potessero raggruppare o in filiera piuttosto che in un'organizzazione stellare, potrebbero essere veramente importanti, perché in effetti il francese ha rinunciato a questo settore da tempo, gli inglesi anche, hanno solo uno o due aziende, e siamo noi i tedeschi hanno delle cose, forse delle aziende più strutturate, e noi abbiamo lo stesso numero di persone che lavorano nel settore distribuite su aziende più piccole. Quindi è importantissimo che ci sia questo movimento di aggregazione, che deve essere favorito anche dalle istituzioni. Velista da sempre è stato campione italiano della classe One Tonner e campione del Mediterraneo nel 1978, e come spesso capita porta le caratteristiche del suo sport anche nel lavoro. Quante volte nelle regate d'altura, quando è un momento che è un po' di paura, la paura ti passa se tu senti vicino il tuo equipaggio, anche quando il tuo equipaggio sai che ti sta sovrastimando, però la responsabilità che ti viene dal fatto che ti sovrastima è un motore, una molla grandissima. E proprio il senso di appartenenza che deve esserci in azienda è quello che ci deve essere in barca uno. Io sbarcavo quello che diceva ha sbagliato, no? Abbiamo sbagliato, allora è una cosa diversa. Gabriele Galante ha due figlie e quattro nipoti maschi, e uno dei generi, Ciro Radice, lavora con lui al vertice dell'azienda. Poi c'è un management esterno alla famiglia con ruoli importanti. Diciamo che in azienda noi abbiamo almeno quattro persone importanti in azienda. Io devo mettere in cima per forza, e poi tre persone, Radice e altre due persone che sono sicuramente in grado, anche in nostra assenza, insieme a Radice o senza Radice, insieme, di portare avanti la baracca. Nella nostra realtà varesina, se lei guarda il numero di imprese, ma nel mio spisco l'ho detto, ci sono talmente tante, tante imprese che non tirano la terza generazione. Cioè, fondata, il figlio va avanti per un po', e il nipote torna a fare l'operaio. Allora ci sarà ben una ragione su questo argomento qui. Cioè, deve esserci per forza un discorso di considerazione dell'azienda, che non può essere considerata una cosa tua e basta. Cioè, siccome coinvolge altra gente, l'azienda non può essere considerata tua e ne faccio quel che voglio io. Non è, no, assolutamente. Cioè, questo è un discorso socialmente irresponsabile, anche se hai 15 operai. Non c'entra niente il 15 o il 14 per evitare i problemi che sappiamo dal punto di vista sindacale. C'entra un discorso di responsabilità sociale. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.